Madonna, con le cime di rap, dove le abbiamo messe? Le cime di rap? E quelle le ho finite ieri sera. Ho fatto latte cime di rap, non vi ricordo. Che buono, Madonna. Guarda. Ancora qua ce l'ho che si sta muovendo. Perché quello lì è vivo, fermentatico vivo. Madonna, e ancora si muove, gioca la pallone. Devo vedere dopo come si muove. Madonna, Nicole, mai visto dove ti ho portato? Siamo a Radio Puglia, il mio sogno. One giù, fangu. Io sono il presidente. E questa non è Radio Puglia, no. È Radio Tassello. E non avete neanche annunciato la sigla. È Eva, degli Arem. Madonna, presidente Nico. Una visione. E che facciamo? Andiamo a farci due cime di rape. Ma shmanin. No. Penso a te, penso a me, ai nostri sogni e progetti, alle tende che non volevi. Ogni volta che lo guardo, penso a te, penso a noi, tra di mente al tuo essere alfa, ma innamorato come più nessuno. Quel ponte giallo, Londra, Amsterdam, Siviglia, mia nonna e tua madre, e ora tu, marito e padre. Sono strafelice per te, e qua mi spiace non potertelo raccontare. Con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticare. Ed è rimasto un anello solo. Sono strafelice per te, e poi mi spiace non potertelo raccontare. Con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticare. Sono strafelice per te, ed 8 anni da quel giorno sono passati. Con questa foto ti augurerò, grazie, prego, buon compleanno. Come on lady, be my lady. Are you ready? Mario Rose. Oh yeah. Fammi spazio. Mi sono spostato e lei mi si è sdraiata accanto e mi ha abbracciato forte. Ho sentito il suo ginocchio ossuto. Le ho messo una mano su un fianco. Le potevo contare le costole. Poi le ho carezzato la schiena. Sotto le dita le vertebre appuntite. Olivia, mi fai una promessa? Cosa? Che non ti droghi più. Mai più. Te lo giuro su Dio. Mai più. Non ci casco più in questa merda. Lei mi ha sussurrato in un orecchio. E tu, scemo, mi prometti che ci rivedremo? Te lo prometto. Quando mi sono svegliato, mia sorella era andata via. Mi aveva lasciato un biglietto. Da Io e te, di Nicolò Maniti. Ciao ragazzi, abbiamo qui con noi in studio Maria. Ciao. E Simone, il nostro presidente, che ci farà compagnia anche in tutta l'altra programmazione. Ciao a tutti. Benissimo, raccontateci un po' perché avete letto questo brano del libro di Nicolò Maniti. Allora, abbiamo letto questo libro perché questo sarà il titolo che affronteremo nel prossimo caffè letterario, che è domani, lunedì 30 maggio. Il caffè letterario è un appuntamento fisso dello spazio anteprima, giusto? Sì, è un appuntamento fisso, ormai sono cinque, siamo sì, al quinto ciclo, sì, giusto. Sì, cinque cicli. E per ogni volta trattate un libro differente, quindi. Esatto, okay. Ogni 15 giorni più o meno, un lunedì sì, un lunedì no, scegliamo un libro e affrontiamo una discussione sul libro, partendo dal libro poi, in realtà sì. È come un po' se fosse una scuola, perché poi alla fine ai ragazzi che ci sono con voi gli date il compito, se volete, di dover leggere questo libro per poter essere pronti la volta dopo, oppure molto fritti? No, è proprio il contrario, nel senso che non deve essere, l'idea non è proprio quella di essere lì io a spiegare qualcosa agli altri, assolutamente, l'idea è quella di, diciamo, di convivialità, esatto, sì, esatto, di discutere tranquillamente su un tema che in quel caso è il libro. Poi, cioè, l'idea poi sarebbe che anche gli altri proponessero altri titoli in modo appunto da confrontare le proprie letture. Quindi è una cosa molto trasversale, perché ognuno può portare il titolo che gli pare. Assolutamente, okay, sì. Quindi decidiamo prima. Ovviamente. Okay. Perché bisogna avere il tempo per leggerli. E generalmente avete delle preferenze riguardo dei libri oppure quelli che vengono? No, quelli che di solito sono quelli che ti hanno colpito per qualche motivo, positivamente o no, non per forza. Cioè, se essere... tipo io vi dovessi portare il topolino, avete anche quello. Beh, magari il topolino non so se è considerato proprio narrativa, però. Quindi, cioè, ci sono. Si può passare dai testi filosofici, per dire, a saggistica, a narrativa o solamente narrativa? Di solito sono romanzi. Sì, solitamente trattiamo di romanzi. Okay. Da ogni sorta. Fatemi un esempio di altri titoli. Allora, abbiamo avuto nel ciclo precedente, abbiamo avuto Cosmopolis di Don DeLillo. Oppure di Boris Vian, abbiamo fatto La schiuma dei giorni e faremo anche Lo strappacuore. Abbiamo fatto Sputerò sulle vostre tombe. Sì, io sono un po' fissato con Boris Vian. Non si notava. Poi abbiamo, adesso avremo Lolita. Poi abbiamo avuto anche autori italiani come Benny, Baricco e adesso Amaniti. E ogni tanto facciamo anche qualche incontro speciale, per esempio per un libro che ci ha consigliato Ilaria, che è una ragazza che viene spesso al caffè letterario, di Maxime Fermin Neve. Ma in questo caffè letterario dei libri un pochettino più semplici, come ad esempio La Divina Commedia, non vi è mai capitato di... Beh, narrativa in generale... Se vogliamo fare La Divina Commedia e vuoi venircene a parlare tu, possiamo anche. Sì, perché una cosa che. Certo, io. Una certo, cosa. Certo, cosa... leggerlo in 15 giorni. Non lo so, L'ho scritto io. Cioè, io e Dante siamo proprio amici da vecchio. Di vecchia data. Sì, sì, sì. Ti facevo più giovane. Beh, ma li porto bene. Io li porto bene. Ma una domanda che mi viene da farvi è: come mai è nata questa passione per il caffè letterario? Perché avete creato questo caffè letterario? Allora, è nato un po' per, diciamo, più per scherzo, diciamo così, nel senso che eravamo qui una sera con una mia amica e siccome lei sa che ho questa passione per la lettura, mi ha detto: ma perché non facciamo qualcosa tipo degli incontri dove parliamo di alcuni libri? E così l'abbiamo proposto, Simone ha accettato e basta, siamo partiti. Tutto. Sì, e da lì è partito adesso. Ma io so che comunque, parallelamente al caffè letterario, che poi vabbè sono due vite completamente diverse, però hanno un filo conduttore comune. C'è questa bellissima iniziativa che è il Book Crossing. Spiegatecelo, perché per i più magari è un po' difficile. Book Crossing è scambio di libri. È libri per tutti, libri gratuiti, cultura libera. Cultura libera, sì. A 360 gradi, quindi. Sì, ognuno può decidere di quante volte è successo di scambiarsi libri tra amici oppure tra familiari. Ecco, l'idea del Book Crossing è questa idea fatta più in grande, e nel mondo sono stati liberati più di 4.660.000 libri. Aspetta, quindi, cioè, tu hai appena detto che nel mondo sono stati liberati. Cosa vuol dire liberati? Cioè? Tra chi pratica il Book Crossing è facile pensare che il libro sia un po' una creatura. Okay. Questa creatura nasce nel momento in cui l'autore la partorisce, possiamo dire così. Okay. E dopodiché, una volta che tu lo adotti, un libro, questo libro cresce con te, puoi leggerlo più volte nel corso della vita e ogni volta ti darà qualcosa di diverso. Però arriva un momento in cui magari un libro ti è piaciuto particolarmente e hai deciso di condividerlo con gli altri. Allora è il momento in cui tu puoi lasciarlo libero, libero che qualcun altro lo prenda e lo legga. Quindi è come se fosse una biblioteca mondiale, dove però non hai l'obbligo di riconsegnarlo dove lo prendi, giusto? Esatto. Sì, un libro può essere lasciato in un punto book crossing, quindi come il nostro, abbiamo qui allo spazio anteprima, oppure può essere liberato in the wild, ossia su un treno, su una panchina. Ma quindi se io fossi un utente e avrei voglia di leggere il tuo stesso libro, come faccio a sapere dove l'hai lasciato? Esiste una community sul sito internazionale del book crossing, che è www.bookcrossing.com, e in questa community internazionale anche noi allo spazio lo facciamo, ci occupiamo di registrare i nostri libri. E questa idea arriva dall'America. C'era un sito che si impegnava a registrare i numeri di serie delle banconote per vedere dove il dollaro andasse per gli stati, insomma. E un po' come se fosse curiosità, cioè sì, giusto per vedere il tragitto, il viaggio che questo dollaro. Esatto. Perfetto. E da questa idea, insomma, questa idea è stata applicata poi ai libri. E quindi chi rilascia un libro può seguire il percorso del suo libro registrandolo sul sito. Oppure chi trova un libro può vedere, inserendo questo codice, perché ogni libro ha un codice suo che viene dato una volta registrato sul sito, può sapere da chi è stato liberato e dove è stato liberato, e il libro viaggia. Sì. Viaggia e poi può essere commentato, e chi lo trova può dire cosa. Guardate, io vedo questa iniziativa come un pretesto bellissimo per dare la possibilità a tutte quelle persone che dicono che i libri costano caro di poter leggere, quindi non si ha più scuse per essere ignoranti. Benissimo ragazzi, volete dire qualcos'altro ai nostri ascoltatori? Ma nella speranza di vedervi spesso, visitare il nostro punto book crossing, chiuderei ricordando le prossime date del caffè letterario, che sono il 30 maggio con io e te di Ammaniti e il 13 giugno con lo strappacuore di Boris Vian. E poi c'è un'altra cosa, volevo solo puntualizzare che non è obbligatorio aver letto il libro per venire al caffè letterario. E poi biscotti e tè per tutti. Ma allora io vengo ragazzi, ma solo per il tè e biscotti, no, non è vero, mi piacciono anche a me i libri. Comunque, grazie Maria, Simone. Prego. Tu resta. E vi volevo fare una domanda, solitamente quando si legge un libro cosa si utilizza? Gli occhi. Le mani. Insula Dulcamara. Faccio altro che guardarti. Gli occhi e le mani, gli occhi e le mani, continuamente. Io i tuoi occhi li bacerei leggero, io le tue dita le leccherei. E poi, e poi, e poi, voglio. Beh, ma hanno detto vieni a Sarone che c'è da fare una cosa in radio. Qua mi hanno chiuso in questa stanza. Cazzo, sta pure una batteria qua, sarà pure carica. Buh. Ma voglio, tengo pure fame, mo. Ma dov'è mio cugino? Raffè! Raffè! Buh. Quello quando lo chiamo non c'è mai. Mi sa che gli hanno fatto male le cime di rap dei primi, deve essere in bagno allora. Raffè! Bravo, bravo! Grazie, grazie. Nicola, che in realtà è Fisio Sergi. Sì, ciao a tutti ragazzi, ciao. Direttamente dall'Accademia del Comico. Accademia del Comico, sì. Bene Fisio, spiegaci allora cosa fate in questa scuola. Ma allora, in questa scuola innanzitutto nasce con l'intento appunto di formare comici. Non soltanto formare, ma magari anche aiutare le persone che hanno la voglia, la curiosità di provare a tirar fuori, perché no, il proprio talento, se uno chiaramente poi lo possiede, insomma. E quindi diciamo che l'anno accademico prevede tutta una serie di lezioni attraverso le quali si possono apprendere i vari rudimenti sull'arte della comicità, perché poi è vero, noi tante volte siamo abituati a vedere una persona su un palco che ci fa ridere, ma dietro questa persona si nasconde un lavoro piuttosto impegnativo, ecco, insomma. Quindi tu stai dicendo che sì, è bellissimo fare questo tipo di lavoro, però è estremamente impegnativo, quindi ci sono delle dinamiche dietro tutto ciò che sono veramente forti. Sì, sì, direi proprio di sì, perché ripeto, guardando un numero comico tante volte si può pensare che la cosa sia nata così, quasi magari per scherzo, oppure anche in 5 minuti. È vero, magari ci può essere sì un'idea forte nata per una battuta, per una frase o per un qualcosa che ci è capitati, però poi questa battuta ha bisogno di un contorno, di essere comunque resa, di essere costruita per appunto essere messa in scena, e questo è un lavoro veramente importante che va fatto dietro. Ma facci un esempio, cioè sì, un esempio pratico di alcuni insegnamenti o di alcune magari insegnamenti pratici appunto, sì, che diamo appunto. Ma diciamo che quelle che sono i meccanismi della comicità sarebbe adesso impossibile racchiuderli così veramente in pochi secondi, perché ad esempio ci sono dei sistemi per rendere una battuta più efficace, ci sono dei sistemi ad esempio per scrivere delle battute, però anche qui poi bisogna sempre contestualizzare il tutto, perché qualcuno, qualche artista può puntare magari sull'avere un personaggio simpatico che ha una storia divertente da raccontare e la racconta in una maniera divertente. A quel punto le battute non sono così fondamentali, perché potrebbe essere talmente divertente il modo in cui questo personaggio ti racconta la sua storia che comunque tu rideresti. E poi ad esempio ci sono quei personaggi che invece sono tra virgolette più asettici, diciamo, comunque più pacati, meno, con meno gestualità, e hanno invece bisogno di avere un testo forte. E poi quindi ecco, tecniche sulla scrittura della battuta, sulle scritture dei testi, e tecniche anche poi di improvvisazione, tecniche per andare in scena in coppia, in gruppo, anche appunto tecniche per poi scrivere e rappresentare un proprio monologo, insomma. Abbiamo sentito poco fa, mm-hmm, uno sketch che abbiamo fatto insieme, sì, con il tuo personaggio Nicola. Perché proprio Nicola? E perché proprio pugliese? Perché? Perché hai scelto questo? Beh, pugliese perché io vanto, diciamo, origini del regno delle Puglie, come lo chiamo io, e non solo, anche del regno delle Sardegne. Quindi ecco, mi divido un po' tra queste due bellissime regioni d'Italia. E quello di portare in scena un personaggio pugliese è sempre stato un mio vecchio pallino, ecco. Perciò ho avuto l'occasione quest'anno di poter mettere in pratica, o quantomeno di poter adattare a questo mio personaggio una serie di aneddoti, di battute appunto scritte grazie all'Accademia, e questo è nato, insomma. Ma io non ho molta dimestichezza con queste forme falliche. Sì, anche la mia amica lo diceva, devi vedere come canta adesso però. Ma Accademia del Comico? Sì. Penso che non sia solo scuola, penso che abbiate delle occasioni di spettacolo fuori. Sì, l'Accademia è chiaramente durante poi l'anno dà la possibilità a noi allievi di esibirci. È una cosa, ci tengo a ringraziare qui pubblicamente alla radio, il nostro debutto, insomma, è stato così bagnato dai ragazzi di Spazio Anteprima, insomma, Raffaele e tutti i ragazzi dello staff. Infatti ci hanno pure finito l'acqua. Non lo so, vedere cosa ho fatto dopo nel letto. Comunque, no, e poi ecco, Accademia appunto vive anche grazie a quello che è il suo laboratorio con le Acciughe Zuccherate, che è questo gruppo di ex allievi o anche attuali, perché cabarettisti che si esibiscono in questo laboratorio a Milano settimanalmente, e quindi il lavoro viene svolto sia a livello didattico che poi a livello pratico, insomma, di fronte a un pubblico. Ma Efisio, se io volessi essere un pochettino più simpatico, sì, dove potrei trovare? Impossibile, guarda, te lo dico subito, è impossibile. Ah, sì. Dove potrei trovare un'accademia che fa il caso mio, insomma? L'hanno ancora fatta. Ma l'Accademia del Comico ha principalmente due sedi, Milano e Torino, quindi sicuramente quella più vicina, diciamo, qui Saronno è quella di Milano. Poi per chiunque fosse interessato, comunque su internet si trova materiale accademiadelcomico.it e potete trovare tutte le informazioni. Ci sono anche degli stage o stage ad hoc per chi non volesse magari frequentare proprio l'anno accademico, ma volesse specializzarsi in qualche cosa di particolare, ecco. Grazie anche a voi a nome dell'associazione, e ci terrei a dire che comunque, essendo stata una piacevole collaborazione, ci saranno sicuramente delle altre date in futuro qui allo Spazio. Sì, sarebbe un piacere davvero, grazie. Benissimo ragazzi, è stato davvero un piacere soprattutto per noi. Ringrazio Simone, il nostro presidente. Grazie. Ringrazio Efisio Sergi. Grazie a te, grazie a voi. E Nicola, ma tu la tieni la lampadina a 1000 watt? E come no, l'ho fregata a casa tua ieri sera. Vado, capito, è finito. Aren. False illusioni e si rivelano fottute bugie. Non mi lasci cantare, non ricominciare a parlare, non esco allergico. Lasciami urlare, lasciami parlare, voglio dire ogni volta la mia. Se vuoi che siano parole d'amore ti mando a cagare scopando con te. Tramonto che fa innamorare, tra le case si coricherà. Vai che percorre strade più lontane da quelle su cui cammino io. Ma salutami Fucci, quello delle luci che si muove con i Jackson 5. Lui che tra i pensieri buoni e quelli cattivi sono. Raffaè, lo tieni un sacchetto per le mozzarelle? Nico, non lo tengo! Allora me la infilo nelle mutande, va! Abbiamo appena ascoltato Giungla di Cemento di Gente Strana Posse. Ed ora, signori, palispazio. Sigla! Venghino, signori, venghino! Si affrettino! La carovana sta partendo! Benvenuti, benvenuti al palispazio. Abbiamo un cambio di rotta alla guida del programma. Non ci sarà più Maria Giulia, ma ci sarà Alessandra. Ciao, Alessandra! Molto piacere. Benissimo, parti con le date dello spazio anteprima. Dunque... Lunedì 30, dalle 21, ci sarà la mostra su Pasolini, aperta fino al 10 giugno.